Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, finalmente insieme, sono le 11:08. Oggi voglio parlarvi di una malattia contemporanea. Siamo o non siamo al programma di salute? Bene, parliamo del troppismo. Per descriverla con precisione voglio farvi ascoltare un buongiorno di Massimo Gramellini del maggio 2006. La sera del 22 maggio, nella cittadina californiana di Poway, succederà qualcosa di sensazionale. Gli abitanti non faranno assolutamente nulla. Non parteciperanno a nessuna riunione. Non assisteranno a gare sportive e tantomeno saranno loro a disputarle. Sospenderanno le assemblee di condominio, le cene sociali, i gruppi di sostegno. Chiuderanno le palestre, le scuole di danza. I convegni imperdibili e invece perdibilissimi, almeno per una sera. Si tratta del primo tentativo di sciopero generale di una comunità contro il troppismo, quel bisogno affannoso di riempirsi la vita per non pensare alla vita, che affligge gli umani fin dalla nascita o quasi. Le prime vittime, infatti, sono i bambini, che a 6 anni hanno già l'agenda di un manager, da un corso all'altro, sempre di corsa, per consentire ai genitori di affannarsi anch'essi, lamentandosi che manca il tempo per fare quel che vorrebbero. Niente. Naturalmente nessuno si sentirà chiamato in causa, convinti come siamo di svolgere solo le attività indispensabili a garantire la sopravvivenza materiale. In realtà un sottile senso di colpa ci lavora ai fianchi, inculcatoci anch'esso fin dall'infanzia. Sostiene che l'ozio è una malattia, il padre dei vizi. Bene, ci hanno mentito. L'ozio è una condizione dello spirito meravigliosa, specie per chi lavora. È un fumetto che si apre all'improvviso sopra la testa, da riempire con i desideri repressi, i sogni nascosti, le idee mai create. L'ozio costringe a pensare e ad ascoltare. Chissà come lo affronteranno gli abitanti di Poway, in pantofole nei loro tinelli. Forse la prima volta si annoieranno, ma anche l'ozio, come ogni attività, migliora con l'esercizio. L'importante è incominciare. L'importante è incominciare, allora noi cominciamo a trovare insieme la ricetta, meglio il vaccino per il troppismo. Se ci viene bene, cari amici, la brevettiamo e svoltiamo in tutti i sensi. 800 24 00 24 se volete intervenire, 349 238 6666 se volete scriverci, ricordo anche il nostro indirizzo Facebook. Però il problema è capire, prendere coscienza, come ricordava Massimo Gramellini, di essere affetti da troppismo. Mi servono 10 o 15 gonne di Calvin Klein e mi raccomando il Pier 59 alle 8 domani mattina. E ricorda a Jocelyn che devo vedere un po' di quei sacchetti che Mark sta facendo in cavallino. E poi di a Simone che prendo Jackie se Maggie non è disponibile. De Bachelier ha chiamato? Sto per entrare, ti chiamo appena... Pronto? Già che sei fuori, ciao. Rosa, ha bisogno che tu vada dal mess e tirare 25 sciarpe che abbiamo ordinato per lei. Ok. Cazzi, già dimenticati i compiti alla data, basta a prenderli. Ah sì, e poi Miranda è uscita per l'appuntamento con Maisel e vuole altro caffè Starbucks per quando torna, bollente. Puoi ripetermi la prima? Pronto? Oh mio Dio! Ci hai messo 3 ore, devo fare pipì. Ma non sei andata in bagno da quando sono uscita? No, che non ci sono andata, ho piantonato la scrivania, no? Sto scoppiando. Bene, allora io credo che questo sia il periodo dell'anno migliore per ammettere di aver esagerato. Si tende ad essere più sinceri quando l'anno agli sgocciola. Allora ripensiamo ai giorni andati, al tempo che non basta mai, che corre sempre troppo veloce, che non ci lascia spazio per pensare e per fare, per ascoltare l'altro, per ascoltare anche noi stessi. Ad esempio, quando capiterà anche voi, a me capita spesso, no, di dire sono stanco, ho bisogno di riposarmi, di staccare la spina, ho bisogno proprio di ricaricare le batterie. Noi sappiamo cercare e regalarci il riposo che fa bene a noi, brancoliamo nel buio, andiamo un po' per tentativi, anzi anche un po' goffi, o sappiamo esattamente di cosa e di quanto abbiamo bisogno per riattivarci. Ditemelo voi all'800 24 0024, datemi una ricetta, datemi la vostra formula, e anche oggi uno di voi diventerà il nostro coach di benessere per un giorno. Scriveteci sul nostro profilo Facebook, se siete davanti al computer il nostro indirizzo è molto semplice: Essere Benessere Radio 24, se siete in viaggio 349 238 6666. Il libro di oggi, grazie alla collaborazione con IBS, e Parole e Relax. E intanto io chiedo una formula ad Alberto Pellai, che è qui in studio con me. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Alberto, riposare per molti significa non fare, no? Però anche questo forse è una ricetta un po' monca, non basta, insomma. Sì, non si può riempire il vuoto con il vuoto. Intanto bisogna prendere consapevolezza che abbiamo a disposizione una zona di tempo, una zona di vita in cui abbiamo la possibilità non di fare quello che dobbiamo fare, ma di fare quello che vogliamo fare, oppure fare quello che non ci saremmo mai aspettati di poter fare. Ecco, questa è un'area generativa, secondo me, l'ozio, come un momento della vita, uno spazio della vita tremendamente creativo, dove tu stai quasi rivoluzionario, sì. Diceva qualcuno, non stai per fare qualcosa, ma stai con, prima di tutto stai con te stesso e poi stai con un percorso di ricerca che ti porta là dove probabilmente succederà qualcosa che ti farà dire ce l'ho fatta, ecco, finalmente sto bene. Io lancio una sfida ad Alberto Pellai, perché è qui davanti a me e che voglio coinvolgere, ma soprattutto agli amici da casa. Proviamo ad andare per sottrazione, in questo, partendo da oggi, per fare un po' il bilancio, ma anche i progetti per il futuro. Togliere per aggiungere, e sembra una contraddizione, ma potrebbe essere invece la formula vincente. In linea con noi abbiamo il professor Duccio Demetrio, docente di filosofia dell'educazione all'Università di Milano Bicocca. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno e grazie a voi. Allora, togliamo? Si toglie per aggiungere? Potrebbe essere? Certo, è un paradosso molto bello, a mio parere, perché siamo troppo pieni spesso di parole, di rumori, di cose da fare, di fretta. Diceva molto bene prima Alberto che spesso questo succede perché abbiamo in fondo paura di stare con noi stessi, perché sentirci improvvisamente come isolati dal mondo oggi quasi ci angoscia, ma non c'è un ozio profondo, un ozio che ci possa riposare, se crediamo che tutto questo avvenga soltanto nella folla, insieme agli altri, nella congestione. E quindi togliamo qualche cosa di troppo dentro di noi per scoprire che non c'è soltanto il vuoto, perché noi cerchiamo di riempire il vuoto, ma ci sono nuovi orizzonti, nuove possibilità di inventare, di scoprire, di creare. Ecco, questo noi lo diciamo, ma poi spesso ci chiediamo come fare. Io consiglierei la cura degli interstizi quotidiani. In ogni fondo ora della nostra giornata ci potrebbero essere dei momenti di pausa, dei momenti di relax, appunto, degli intervalli cerchiamo di riempire il più rapidamente possibile. Invece può bastare una passeggiata, può bastare il prendere qualche appunto, il pensare cose anche lontane, scostandoci anche dalla ressa, dalla folla, e questo può essere sufficiente. Quindi l'obiettivo potrebbe essere, anche per il nuovo anno, cercare di dilatare questi interstizi, renderli qualcosa non di vuoto, di impreciso, ma riempito dalla nostra volontà di cambiare. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole. Più di silenzio, forse anche questo può essere un ingrediente della ricetta che oggi stiamo scrivendo insieme, per provare a cambiare passo, a vivere un po' meno stressati, un po' più felici, direi un pochino più creativi. In restless dreams I walked alone. In linea con noi, ci ha ascoltato in silenzio, rapita forse, no, da questa canzone che tocca sempre il cuore, Nicoletta Pollamattio, giornalista, ricercatrice, ideatrice del Festival del Silenzio, al tema dedicato anche libri, e fondatrice insieme al professor Duccio Demetrio dell'Accademia del Silenzio, che ha sede ad Anghiari. Ciao Nicoletta! Ciao Nicoletta! Ciao Nicoletta. Nicoletta, Nico e Nico, Bibi e Bibò! Benvenuta! Esatto. Grazie di questa presentazione, grazie di introdurre il silenzio con questa canzone bellissima. Tra l'altro Paul Simon, che abbiamo appena ascoltato, diceva del silenzio che ne cogliamo il suono anche in mezzo a 10.000 persone, forse più. Che cos'è? Parliamo, ci date una definizione, voi che avete fondato l'Accademia del Silenzio, di cui parleremo, perché è un progetto molto bello, molto stimolante, creativo, direi un vero toccasana nei tempi di oggi. Ci date una definizione del silenzio, Nico? Guarda, a me piacerebbe ricalcare quello che si è detto finora, e quindi non definire il silenzio come una fuga, appunto un lusso, qualcosa di assoluto che ci si concede una volta ogni tanto. Mi piacerebbe di più concepire il silenzio come parte della nostra vita quotidiana, e quindi se posso definire in qualche modo il silenzio, penso che sia uno strumento che abbiamo a disposizione per parlare meglio, conversare meglio, essere più a contatto con noi stessi, anche per comunicare, e quindi mi piacerebbe che fosse una sorta di medicina omeopatica, diciamo così, che a piccole dosi ci somministriamo ogni giorno, appunto per ritrovare un giusto ritmo, un ritmo diverso, diciamo, nelle nostre vite, che non significa soltanto rallentare, appunto, ma darsi spazio, dare spazio a quelli che sono i veri desideri e quelli che sono le vere esigenze poi di ciascuno di noi, all'interno anche del rapporto con gli altri. Questo mi piace sottolinearlo, quindi il silenzio come contrappunto, non come isolamento, come fuga, come vacanza, troppo facile. Troppo facile, a noi piacciono le cose difficili, no? Professor Demetrio, il silenzio non è mai del tutto silenzioso. Innanzitutto saluto la cofondatrice dell'Accademia del Silenzio, ciao Nicoletta. Ciao Luigi. Contrappunto, anch'io riprendo questo motivo. Contrappunto significa trovare nella propria esistenza qualcosa che faccia eco, ma non con la nostra vita usuale, materiale, con la nostra vita esteriore, ma che generi degli echi nella nostra vita più interna, più profonda. Ecco, è un ozio, tra l'altro, questo, per riprendere il motivo, il silenzio come ozio meditativo, cosa quanto mai importante, perché ci permette di non spendere nulla, ecco. Credo che questo aspetto non vada, ecco, trascurato per nulla, perché il silenzio, come la scrittura di un diario, non costano nulla, e abbiamo bisogno quindi di riscoprire le cose gratuite, le cose che ci giungono senza sforzo, senza pena, senza conquista. Ci corrono attorno queste possibilità e non sappiamo cogliere, non sappiamo prendere. Quindi il silenzio è veramente una parentesi, non tanto tra i rumori e i frastuoni dell'esistenza. Il silenzio siamo noi, come possibilità di è un modo per riscoprire anche i sensi e il senso. Andiamo a Trento, c'è Elena che forse ci vuole dare una ricetta. Buongiorno Elena, benvenuta. Buongiorno. Innanzitutto io il silenzio lo definirei l'architettura del pensiero. Brava Elena. Mi piace vederlo così. Sì. La mia ricetta è questa. Ormai ho un'età in cui i figli sono usciti di casa, sono con mio marito, e io prendo una settimana sabbatica in cui non la chiudo il telefono quotidianamente a casa ai miei figli e a mio marito per dare mie notizie, e vado in una località che loro non devono conoscere. Dai, che possono Elena, essere, ma da quanto tempo fa questa fuga? Una settimana. Sì, ma da quanti anni fa questa? Da quando i miei figli non sono, quindi da quando hanno cominciato l'università, da quando avevano 18 anni, quindi sono ormai parecchi anni, e mi porto i libri che mi piacciono, sono sola, ma se voglio converso con alcune persone, normalmente sono in una struttura che mi offre anche la possibilità di conversare con qualcuno o di ascoltare, perché anche ascoltare è estremamente interessante. E soprattutto di passeggiare, di vedere e di cambiare ogni anno località. Posso essere anche a 10 chilometri da casa mia. Però lei non... Ma questo non ha importanza. Cioè io devo essere in un posto che gli altri non conoscono. Elena va altrove. Grazie Elena. Alberto. Ma sì, credo che sia proprio una bellissima narrazione quella di Elena, che ci propone l'idea di un silenzio come il coltivare un altrove. Personalmente penso che il rumore del silenzio, il suono del silenzio sia proprio la percezione del flusso invisibile del rumore che fa il nostro mondo interiore, e trovo nel silenzio una profonda capacità di connettere se stessi con se stessi, cioè sentire che noi abbiamo proprio delle narrazioni che parlano, raccontano, dicono dentro di noi e che troppe volte vengono messe a tacere da tutto ciò che sta fuori. Invece io vorrei chiedere a Nicoletta o al professor Demetrio che cosa succede all'Accademia del Silenzio. Chi parla, Duccio? Parla Nico. Dirigiti tu, perché sennò parliamo all'unisono e facciamo poco silenzio. Senti, al di là dello specifico dell'Accademia, magari io ti butto sull'onda di quello che ha detto l'ascoltatrice. Una cosa che mi piace sottolineare: l'Accademia è stata lanciata meno di una settimana fa, con la possibilità di aderire sul sito della Libera Università di Anghiari, e abbiamo ricevuto nel giro di una settimana 170 adesioni. Questo vuol dire che c'è davvero un bisogno di silenzio, e più che raccontarti magari il dettaglio dell'Accademia, che mi piacerebbe sì, dammi qualche motivazione. Esatto, mi piaceva dirti un paio di motivazioni alle persone che hanno aderito, perché alcune sono davvero bellissime, e te ne leggo un paio. Una signora aderisce dicendo: perché amo la conversazione tenue, l'incontro e non lo scontro. Per cambiare ritmo, qualcuno dice, per ascoltarsi ed ascoltare, e poi c'è questa bellissima motivazione: per non avere paura del vuoto che a volte si riempie freneticamente e inutilmente di parole, e un'ultima, per sperimentare il silenzio non in solitudine, e ancora, perché le parole sono pietre e a volte costruiscono prigioni. Bella, Alberto. Devo dire che anche noi, però, Nico, adesso c'è una sorta di gara tra gli ascoltatori di Essere Benessere e le persone che si sono iscritte e sono andate sul sito dell'Accademia del Silenzio. Anche da noi stanno arrivando dei bellissimi messaggi al 349-238-6666, ve li leggeremo, ma sicuramente quelli che ci ha letto Nico ci piacciono molto. Professor Demetrio, a chi possiamo consigliare un percorso all'Accademia del Silenzio? Ma a tutti coloro, innanzitutto la prima iniziativa si terrà proprio alla fine di agosto, sarà una settimana dedicata al silenzio, con momenti interessanti di solitudine individuale, ma poi con altri momenti di incontro, di ascolto, per imparare ad ascoltare appunto anche la musica, a vedere, a leggere un quadro, a leggere anche insieme un libro. Quindi Accademia del Silenzio non significa consacrarsi alla solitudine, significa proprio imparare con gli altri ad essere più abitati dal silenzio, e ci saranno quindi dei momenti anche divertenti, credo, corali, in cui una parte della giornata si passerà con se stessi, e l'altra parte nelle piazze di Anghiari, lungo le vie del borgo, si ascolteranno studiosi, esperti che parleranno e racconteranno e suoneranno anche di ciò che per loro vuol dire vivere il silenzio. Quindi una vera e propria festa silenziosa del silenzio, ma con tante voci interne che hanno voglia come un'orchestra, ecco, lasciamo suonare l'orchestra che è dentro di noi. Professor Demetrio, la ringrazio per essere stato con noi e le auguro un buon anno. Un abbraccio a Nicoletta Pollamatiò per essere stata con noi. Grazie Nico, ci sentiamo presto. Allora, continuiamo la nostra puntata. Noi abbiamo bisogno di riposo, anche il nostro fisico lo dice, non sempre in silenzio. Noi cercheremo di ascoltarlo e ci faremo aiutare tra poco dal dottor Attilio Speciani, ma adesso è tempo di andare a sentire le notizie dei mercati, il meteo. Voi continuate a scriverci la vostra ricetta per il riposo, il significato che voi per voi ha il silenzio, ma da adesso potete anche un po' lamentarvi e chiedere anche informazioni per riposare meglio e per far riposare la mente e il corpo. 800 24 00 24, tra poco si apre lo spazio con lo specialista. Dolce fare niente, dolce rimandare, stare con i piedi penzoloni guardando il mondo girare, andare andare, aspettare dolcemente l'ora di mangiare, guardare l'erba crescere, l'acqua evaporare, tranquillamente all'ombra di una fresca brezza farsi accarezzare, dare forma tonda a bolle di pensieri che scoppiano nell'aria non appena si fa troppo seri o troppo pesi, starsene leggeri, trasformare le ore in mesi come foglia lungo il fiume dentro la corrente, dolcemente arrenditi, starsene con. Credo che anche il nostro stomaco, provato dai pranzi delle feste, amerebbe un periodo di dolce far niente, come canta Giovanotti, o meglio direi di sano far poco. Buongiorno dottor Speciani, bentornato. Buongiorno a tutti voi, augurissimi. Augurissimi, e noi continueremo a farcelo, dovremo farci gli auguri tutto l'anno. Sì, è bellissimo, dai, eh? È un pensiero positivo che mantiene le sue azioni, che quindi sono care, ed è vero quello che si dice, nel senso che il riposo è un dato importante, dopo questi giorni di sovraccarico anche il nostro stomaco ne ha un vantaggio sicuramente, non solo, mettiamolo anche in un riposo in modo ampio, parliamo anche del riposo in termini di dormire, no? Perché la gente in questi giorni, tutti quelli che sento dicono ah, ma adesso bisogna mangiare meno, dico intanto riposati, dormi, perché il dormire tu non lo sai ma fa dimagrire, e la gente quando lo dico dice ma no, sbarra gli occhi, andare, muoversi, fai tutte le trasmissioni su Radio 24 dicendo che bisogna muoversi e poi dici di dormire, no? Cos'è questa storia? E in realtà invece c'è questo ampio bilanciamento, nel senso che il giusto sonno in realtà elimina questa sensazione di legata allo stress, cioè ad uno stato di combattimento, no? Per cui noi quando siamo in una condizione di presunto combattimento, non importa che combattiamo per davvero, l'organismo lo sente come tale, fa raffronto col paleolitico e dice ma se uno non dorme perché è lì che è preoccupato che i nemici, le bestie, le belve feroci arrivino, no? Quindi resti attivo con il cortisolo interno, che è equivalente al cortisone, che rimane attivo, e questo determina una inibizione dei nostri ormoni dimagranti, e non solo, ci fa aumentare bene la pancetta e tutto quello che quindi serve. Quindi dobbiamo farci delle sane dormite, dottor Speciani. Lei sa bene però che per alcune persone il riposo è un sogno, dormire bene è, devo dire, una cosa che capita a pochi, almeno stando i dati. Si può imparare a dormire in questi magari giorni di fine anno, ma alcuni avranno preso un po' di vacanza? Ma io credo che una delle cose più importanti, sempre per rifasare il nostro organismo e perché c'è una regolazione ormonale, è proprio quello che tante volte abbiamo detto, ad esempio abbiamo un po' di tempo in più e quindi il fatto di fare una prima colazione già mette, come dire, l'organismo in condizione di sentirsi più a riposo, no? Più rilassato, e quindi di mangiare poco alla sera. Questo è un trucco che non vuol dire, attenzione, non mangiare, ma è proprio ridurre complessivamente la quantità. Bisognerebbe mangiare il 45% di quello che dobbiamo mangiare nella giornata al mattino, allora gli ormoni si rifasano e alla sera evitiamo di riavere uno stimolo, un carico che poi ci tiene svegli, ci rende difficile dormire e innesta questo circolo vizioso drammatico che ci fa star male da un lato e che dall'altro ci fa ingrassare. Allora, in più ricordiamoci che anche masticare è una cosa importante. Io dico che bisogna gustare il cibo, non contare 136 volte, no? Gustarlo, sentire, poi abbiamo un mucchio di avanzi che sono avanzati da questo periodo. Gli avanzi, gli avanzi, gli avanzi, dottor Speciani, vado subito da Olga che ci chiama da Torino, ne avrà sicuramente un po' anche lei, magari li ha nascosti, li ha regalati agli amici. Olga, buongiorno. Buongiorno a voi, io sono perennemente in macchina, diciamo osteggiata dal traffico cittadino, in quanto il mio lavoro è un lavoro finanziario. Di conseguenza la mia domanda perenne è sempre quella di potermi rilassare sufficientemente, ma non riesco né psicologicamente né a livello muscolare. Pratico ogni tanto il golf, dove veramente per poterlo, diciamo, giocare al 100% occorre rilassarsi, e di conseguenza il risultato anche questo è negativo, perché ovviamente è sempre sul lavoro, quindi allora non riesco più a rilassarmi, non riesco assolutamente, sono sempre stressata. Io nervosa. Penso che lei ormai si è fatta un po', no? Dice non riesco a rilassarsi, allora provi a seguire i consigli del dottor Speciani e di Alberto Pelai, però provi a farlo, perché tante volte ne dice non riesco, e nonostante ci spieghino magari come fare, che cosa togliere, che cosa aggiungere, uno dice no, tanto con me non funziona. Alberto, Olga ti mette alla prova, vediamo che se riesci a darle una ricettina, poi passiamo al dottor Speciani. Direi che Olga deve partire dall'aprire l'agenda e decidere uno o due giorni nelle prossime due o tre settimane che devono essere completamente vuoti da impegni. Poi, per come ci raccontava, probabilmente due delle cose che la sfiniscono sono il dover permanere a lungo nel traffico e l'avere così tanti impegni uno dietro l'altro da mettere in sequenza. Per cui in quei giorni in cui l'agenda è rimasta completamente libera, prima decisione, non utilizzare l'automobile. Seconda decisione, non avere impegni predeterminati. Quel giorno si alza e decide qual è la direzione in cui vuole portare la sua giornata. E a Olga voglio leggere anche il messaggio che ci arriva da Elena. Ogni volta che mi accingo a fare qualcosa mi chiedo: è importante? È necessario? Mi interessa veramente? 9 volte su 10 la risposta è no. A quel punto mi arresto. Dottor Speciani, invece parta lei con il consiglio. Il consiglio è proprio un non consiglio, perché a volte le persone sono lì e dicono devo rilassarmi, e io non dico devi rilassarmi, fallo. E come si fa? Intanto respira e sii consapevole del tuo respiro. È fondamentale, cioè a volte le persone sono ferme al semaforo e sono lì a guardare cosa succede di fianco, destra e sinistra. Uno sfrutta il semaforo e consapevolmente respira, e già questo è un momento di distacco forte e potente, quindi questo ci porta già verso una dimensione, io lo chiamo di slow mood, anche nel caos dove uno è coinvolto da 7000 cose eccetera. A volte il fatto di riuscire a fare le cose in modo morbido aiuta veramente moltissimo. Allora, proprio in questi giorni qua, girando per andare a trovare qualche parente, qualche amico, capita di essere fuori città, e fuori città entri e improvvisamente ti rendi conto che intorno entri magari in cittadine, non in paesini minuscoli, e la gente cammina più morbida, più rilassata, con una specie di modo morbido di avvicinarsi alle cose, e guardandoli si è condizionati poi a rirespirarsi in modo decisamente più consapevole. Io credo che lo slow mood è un modo diverso a volte di percepire gli alimenti, il respiro, le cose che facciamo, sia assolutamente importante e vada gestito, va appreso. A volte semplicemente guardandosi intorno e riuscendo, come ho detto prima ad Olga, a respirare anziché dirsi devo respirare, che ritorna, come diceva Pellai, come una cosa messa in agenda. No, respira, non devi respirare, respira. Dottor Speciani, mi chiedono via SMS molti ascoltatori se è tempo adesso di fare un giorno di digiuno, una dieta del minestrone, quella della banana, il fantino, insomma tutti sono preoccupati, anche secondo me è una mezza preoccupazione, perché in realtà loro non me lo stanno scrivendo, mi dicono solo dopo questi pranzi sento bisogno di depurarmi e magari smaltire un po' di chili che si sono accumulati velocemente in questi, però loro stanno già pensando al cenone di Capodanno, quindi mi porto avanti così poi esagero dopo. Dottore, prima di salutarci, che si fa? No, assolutamente, questo, il digiuno determina una fame residua per i 3-4 giorni successivi. Allora si fa una specie di riduzione complessiva, che significa ci si sveglia, si mastica bene, una prima colazione in cui abbiamo mucchi di avanzi, pezzettini di faraona, noci, nocciole, cioè ci vogliono un bilanciamento, un po' di proteine, un po' di frutta, mettere dentro nella prima colazione un po' di tutto, e poi magari fare pranzo e cena semplicemente con un pinzimonio, bersi delle tisane, cioè certo ci sono degli strumenti ottimi senza bisogno di mangiare mangiarsi paninazzi terribili a pranzo e a cena. Quindi prima colazione che resti positiva, perché è comunque qualcosa che tara il nostro organismo, pranzo e cena leggeri. Ma anche il panettone che abbiamo avanzato ce lo mangiamo a colazione, se vogliamo mangiarlo. Mangiato il panettone, c'è cioè la festa del San Biagio, ci sono tutti questi panettone nella tradizione, io ricordo quando ero piccolino era il panettone pucciato nel latte al mattino, certo. è una gioia. Una delizia, panettone Pandoro. Quindi anticipiamo una grossa, abbondante, ricca, stuzzicante colazione e poi alleggeriamo. Noi oggi stiamo dando in fondo delle ricette, sottrarre per aggiungere, no? Esatto. E anche questo può, no, si sposa un po' alla filosofia della trasmissione di oggi. Assolutamente sì, credo proprio che sia davvero questo elemento di riuscire a trovare anche degli elementi di pace, di rallentamento, di modalità differente, che a volte un po' caratterizza anche delle diversità, come dicevo prima, tra di diverse, vedi la città, i paesi, c'è proprio a volte una diversità che ti rendi conto che è solo culturale e che invece va magari imparata, a riuscire a trasferire un po' di questo provincialismo, diciamo, legato all'essere più morbidi anche in chi vive in città e viceversa, in modo da potersi gestire, sapere passare da uno stato all'altro, imparare a farlo in modo giusto, perché ognuno ha le sue ricchezze. Dottor Speciani, grazie per essere stato con noi, buon anno, ma intanto noi ci sentiamo presto. Assolutamente, grazie a tutti voi, però diciamo auguri, come si diceva, auguri per tutti sempre. Auguri, baci, abbracci. Buona giornata, dottor Speciani. Buona giornata a tutti voi, a presto. Voglio leggervi alcuni messaggi. Per me le pause rigeneratrici sono i percorsi della memoria. La sera, prima di addormentarmi, ripercorro la giornata trascorsa analizzando i miei e gli altrui comportamenti e rivivo anche il dolore di avvenimenti passati, il che mi permette di vedere il continuum della mia vita. Alberto, un po' quello che si diceva, l'esame di coscienza, che non, no, si dovrebbe fare indipendentemente se si è credenti o non credenti, è un po' il bilancio quotidiano. Sì, magari possiamo usare un altro termine che a me piace di più, ed è scoprire le autonarrazioni, cioè le cose che noi diciamo a noi stessi di noi stessi, che è un esercizio bellissimo sia nella quotidianità sia ma uno se lo dice da sé a sé, da solo parlando in silenzio dentro di sé, come si fa l'autonarrazione, Alberto? Ma intanto proprio il sapersi ascoltare, e poi tu tante cose te le racconti e invece ci sono delle cose che dentro di te si raccontano per quello che sono, quindi il bisogno di non interpretare ma di ascoltare la realtà che ti parla dentro così per come è, ecco, quello è un passaggio che effettivamente fa molto bene alla nostra salute mentale. E a proposito di passaggio, ora è tempo di andare a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Pier Mauro dalla provincia di Bergamo, lo vedo qua sullo schermo, lo sentiamo subito dopo, tra poco. Porca trota! Mi hanno rifiutato il trasferimento a Milano. Mi sono spacciato per disabile. Non voglio disturbarla ulteriormente. Arrivederci, signori. Licenziato, trasferito. Al sud. Al sud, tipo Bologna. Sei stato trasferito vicino a Napoli. A Napoli? Ci resterai 2 anni. 2 anni? Oh, mia bella Madonnina. Che tebrile te lo. Perché mi hanno detto che qui a una regione facciamo un gran caldo. Invece, prima la posta la portavano i cammelli. Poi direttore erano un bad will. Che fa bobe, mi piglia per il culo. Mi hanno mandato apposta per farmi lavorare. Quindi cerchiamo di ottimizzare il lavoro. Grazie. No, è l'odore di naftalina che mia mamma la mette ovunque. Ma perché ci sono i topi? Topini saranno. Non ogni topo è tanto. La vedono qui. No, si hanno affittato un monolocale a fianco. E tu? Quella è cioccolata mischiata al sangue di maiale. Ma vederli così sembrano normali. In realtà sono scuri, piccoli, tracagnotti. Buongiorno a tutti. Se gli fai vedere che le palle, scappano. Non mi costringa a metterle una nota disciplinare. Potrò mai ne paura. Non farei temerare come tuo solito, Direttore! Direttore! Non abbinate paura, direttore. Dobbiamo fare una sorpresa. Ognuno di noi ha messo qualcosa. Per cominciare può andare bene, no? È meravigliosa. Quant'è? Noi l'abbiamo fatto per amicizia. Amicizia? Non ci conosciamo nemmeno. Poi ci conosceremo. Ce lo siamo riascoltati tutto perché a me è piaciuto, ma non solo a me, è stato un grandissimo successo. Benvenuti al Sud, remake della commedia francese Giù al Nord, un film, Alberto, che tu hai visto e che ti è piaciuto. Ma io ho in linea Alessandro Siani. Ciao Alessandro. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno a te. Senti Alessandro, il grande successo di questo film sottolinea, forse dico io, anche il desiderio delle persone di incontrarsi e quella voglia anche di scoprire uno stile di vita differente. C'è questa bella contrapposizione tra la frenesia della città, Milano, e la calma di un piccolo centro vicino al mare, dove la vita è tutta un po' più slow. Ma sì, perché non so che significa slow, però in genere... Che scemo! Ha fatto un'analisi perfetta, nel senso che nel film veramente si evince un po' di differenza, anche diciamo un po' di quell'approccio diverso alla vita che possono avere milanesi e napoletani, no? I milanesi un po' più precisi, un po' più freddi anche sotto alcuni punti di vista. Il napoletano invece, con una sua calma, con una sua tranquillità, con un suo riposo, diciamo, che è come Radio 24. Il napoletano è un po' riposo 24 ore su 24, riesce però in questo suo riposo, questa sua tranquillità, anche ad inventare, a far emergere la sua fantasia. Infatti, secondo me, le doti del napoletano, che sono la fantasia, l'inventiva, che derivano proprio da questa possibilità di poter pensare, di poter riflettere, cosa che al milanese magari lavorando un po' di troppo più, troppo di corsa e lavorando. Poi quando hai detto è preciso, ecco, molto spesso si sente preciso, si dice del milanese, Alberto, e in quel preciso c'è tutto, no? C'è tutto quello che in effetti ci sta stretto. Alberto, tu che sei milanese. Ma io devo dirti che io, che sono in realtà varesotto ma lavoro a Milano, quando mi capita di dover lavorare in Sud Italia, effettivamente ne sperimento un piacere magnifico, cioè un clima molto più rilassato e poi anche un piacere del vivere. Nel momento, quando si pranza, la pausa pranzo è una vera pausa pranzo, non è una fretta incontrollata, afferrare un panino e riscappare al lavoro di nuovo. Non lo so, per me questo è chiaramente molto piacevole, dentro forse ha anche proprio un segreto del saper vivere che forse va recuperato. Ma secondo te si può imparare oppure si nasce così, Alessandro? No, diciamo che noi abbiamo il pranzo e poi abbiamo la pausa lavoro. Sai, una volta fecero un'intervista a tre napoletani a Piazza Plebiscito, no? Chiesero al primo napoletano che lavoro fa, rispose il primo: disoccupato. Chiesero al secondo: e lei? Niente, do una mano a lui. Chiesero al terzo: scusi, e lei che lavoro fa? Rispose il terzo: e che devo fare? Fanno tutto loro. Alessandro, beh, però se tu passeggi, se tu vai al sud, forse perché noi qua a Milano si corre, ma io dico Milano, ma succede comunque al nord, ma è una mentalità che poi prende anche chi del sud si trasferisce al nord. Parlavo con Teresa Mannino qualche mese fa e lei mi diceva: ma perché a Milano corrono anche per andare a prendere il pane e non si fermano neanche quando sono dentro al pane, dentro al negozio? È un po' forse tante volte un atteggiamento che però poi ti fa perdere le cose importanti. Che dici, Ale? Ma guarda, sinceramente io sono stato a lavorare a Milano e devo dirti che preferisco Napoli, perché a Napoli io scherzo, diverto a giocare sul luogo comune, ma a Napoli si lavora. Però devo dirti che incredibilmente, ma proprio nel DNA ci sta proprio l'impatto a godersi anche un attimo, un centesimo di secondo che uno ha la possibilità. Questo a Milano evidentemente si deve un po' riscoprire e imparare, perché Alessandro, noi abbiamo parlato, è stata fondata l'Accademia del Silenzio. Fondate un'accademia anche voi, eh? Sì, vabbè, il napoletano deve fondare l'Accademia del Gesticolare. Come del gesticolare, del sorriso, della creatività, del lavorare senza farla cadere troppo dall'alto, insomma. Io ho notato una cosa, però, se mi consenti. Tu devi. Grazie. Che, per esempio, ci sono delle cose che noi abbiamo in comune tra Napoli e Milano. Lo notavo proprio in questo periodo natalizio, no? Perché delle volte, ecco che... il napoletano si scoccia, si stanca di fare cose, ma anche il milanese. Io ho trovato una cosa che, voglio dire, ci unisce. Per esempio, l'albero di Natale, tutti quanti lo vogliono fare, sì, nessuno lo vuole smontare. Ah, quanto è vero! Hai capito? Io l'anno scorso sono arrivato a casa mia a marzo, ancora con l'albero in mezzo alla casa. Ho detto, mamma, Alessandro, come durano queste palline? Ho detto, mamma, non sono i palline, sono spuntate le arance. Questa è una cosa, è vero, che ci lega a tutti gli italiani, no? Vedi, l'albero di Natale ci accomuna. Tu come fai a riposarti? Guarda, io vengo da una famiglia di riposatori. Io amo sempre ricordare questa cosa, perché è vera, proprio per capire proprio la rilassatezza di noi napoletani, ma anche l'ozio, diciamo, che ormai siamo schiavi dell'ozio. Una volta stavamo io e mio padre all'interno della nostra casa, noi fuori avevamo un cortile. Disse: papà, ma sta piovendo. Mio padre dopo 5 minuti mi rispose: chiama il cane e vedi se torna bagnato. Ma questa è troppo bella. Alberto, c'è dentro tutto. Chiama, e il cane poi era bagnato, o anche il cane ha chiamato a sua volta un altro? Perché se lì bisogna avere almeno un gatto, e poi il gatto che chiami il topo, e si ritorna un po' come la canzone di Branduardi. La canzone di Branduardi. Alessandro, buon anno. Grazie a voi, tanti auguri di quando cuore. Sei di nuovo, quando ti vediamo di nuovo sugli schermi, grandi, piccoli, guarda, eccetera? Adesso sto lavorando ad un film con Fabio De Luigi che si chiama La peggiore settimana della mia vita. E poi si parla proprio di questo Benvenuti al Nord, quindi molto probabilmente ti rivediamo, e io ti aspetto qui. Grazie Alessandro. Grazie, in bocca voi. Al lupo. Ciao Pier Mauro. Buongiorno. Innanzitutto complimenti per la trasmissione, tanti auguri. Grazie anche a lei. Ascolti, io sono un piccolo imprenditore e ho avuto, a mio avviso, la fortuna e l'opportunità di frequentare dei corsi dove una delle regole era il silenzio. Non so se posso dire l'organizzazione in cui ho frequentato i corsi, questo sta voi dirmelo. Comunque, è un'organizzazione di Padova. No? Bene, e si è trovato bene? Le ha cambiato? È cambiato qualcosa? Mi sono trovato benissimo, nel senso che sono corsi che vengono organizzati chiaramente con altre persone, gruppi di 9 o 12 persone, dove si ascolta chiaramente quando si è interpellati. E il corso dura, diciamo, 5 giorni e si svolge poi nel completo silenzio. Allora, nel completo silenzio innanzitutto si comincia a capire che noi non diamo molto peso alle parole e non diamo mai peso al linguaggio corporeo che hanno le persone. A mio avviso con le parole si riesce a nascondere spesso e volentieri quello che si prova, allora, mentre invece con il linguaggio corporeo è molto difficile riuscire a nascondere le emozioni o le sensazioni di una persona, e questo per me è una delle cose che si riesce proprio a prendere facendo un corso in quella maniera lì. L'altra cosa, a mio avviso, molto importante, se uno riesce a escludere, come è capitato a noi, l'orologio, il telefonino, distaccarsi dalla realtà, dalla quotidianità, scusatemi, si riesce proprio a concentrarsi su noi stessi, a staccare totalmente, a riflettere un pochettino su come ci comportiamo. Grazie Pier Mauro, io la devo salutare perché siamo in chiusura, e anzi dobbiamo leggere rapidamente l'SMS. No, non si può, mi dice Fabio Cantadori. Domani, anzi sul sito mettiamo il messaggio selezionato di oggi che riceve a casa il libro. Vi saluto, devo scappare. E così, a domani.